Sì, no, sganciato, no, sganciato, adesso vado su. Siamo pronti? Ce la possiamo fare? No. Vedi, si stanno allenando, guarda. Cosa di divertirsi, perché se ci sono le bambine che non sono... Non hai capito, ma prima dopo io ho fatto.